Stiamo a Milano, da Giusy. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno Giusy, come stai? Bene, grazie. Dimmi tutto, qual è la tua abitudine? Le dico, da quando avevo 10-12 anni e adesso ne ho 60. Sì. Arrivo a casa, la prima cosa che faccio, tolgo le scarpe, tolgo le calze e non sono in grado di mettere le ciabatte. Viaggio a piedi nudi da sempre. Ma Giusy, per quale motivo? Guarda, io in parte posso capire il fatto che non metti le ciabatte perché le trovo veramente l'oggetto orrende, più inelegante che esista. Da quelle da casa, quelle da piscina. Presente quella da piscina che poi ci infili il piede e poi le dita escono da davanti alla ciabatta, una roba orrende, che non si può guardare. Quindi è proprio una cosa estetica, Giusy. Estetica e anche pratica, perché mi danno fastidio le scarpe in casa. Poi sto vestita di tutto punto, non mi tolgo i vestiti, cioè non sono metto il vestito da casa. Ma questo anche in inverno? Sono i vestiti normali che ho normalmente. Ma Giusy, anche in inverno, quando il pavimento è ghiacciato, no? Sì, anche in inverno sempre. Estate, inverno, sempre. Ok. Viaggio sempre a piedi nudi, tanto è vero che i miei amici ogni tanto mi dicono ma non è possibile, è così. Va bene, Giusy, grazie mille, sono d'accordo con te sulle ciabatte. 800240024 per continuare a raccontarmi le vostre abitudini. Andiamo a Udine, da Roberto, pronto? Ciao, come stai? Ciao, io sto bene, tu? Anche. Sei anche sicuro? Perché sento la voce un po'... No, no? La voce così sempre. Ah, ok. Dove sei, Roberto? Adesso sono in macchina, però sono fermo. Bravo, ok. E tu hai un'abitudine proprio di cui non puoi fare senza? Sì, cioè da quando ho 4-5 anni, mi ricordo vagamente come mi è venuta. È un'abitudine che continuo ad avere tutti i giorni. Io ogni mattina prendo 2 fette di pane, a volte le tosto, a volte no, e le spalmo con del gorgonzola e poi le puccio nel caffè latte e le mangio così. Cioè, mangio, questa è la mia colazione. Sabato e la domenica che ho più tempo, invece di 2 magari me ne mangio 4. Certo.